Gianni Chiodi è il nuovo presidente della regione Abruzzo, ha vinto la coalizione di centrodestra come molti avevano previsto con il 48% dei consensi, ha perso Carlo Costantini dell'Italia dei Valori sostenuto dal PD e dalla sinistra radicale, ha ottenuto il 42% dei voti, forte il peso dell'astensionismo, a votare è andato soltanto un elettore su due, il 52% degli aventi diritto, il neopresidente commenta così il suo risultato. È chiara indicazione del fatto che qualcuno più di altri è riuscito a ispirare fiducia. La metà degli abruzzesi non ha votato e questa è l'unico cruccio di questa straordinaria campagna elettorale. Io credo che tra 5 anni ci saranno sicuramente molte persone che andranno a votare di più. Soddisfatti i leader del Popolo delle Libertà che hanno sempre considerato l'appuntamento elettorale abruzzese un test importante anche per il governo. Serve una riflessione, dicono dal Partito Democratico che in Abruzzo ha perso più del 10% dei consensi, forse anche per il terremoto giudiziario che ha decapitato la giunta guidata da Ottaviano Del Turco. E seppur nella coalizione perdente il risultato ottenuto dall'Italia dei Valori è raddoppiato rispetto alle politiche del 2008, attestandosi attorno al 15%, il leader Antonio Di Pietro. Quei partiti che non sono né carne né pesce, non decidono né da una parte né dall'altra, che tra una commissione e una, ma anche non si decidono cosa fare, alla fine vengono puniti. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Teramo.